non è che niente. Ma chi viene al massimo? Ah, aspetta, lì c'è la questione del pulsante dell'interferenza. A quant'è? A 50. Prova a metterlo a 500, quant'è voi? 50 e 500. 500 adesso. Non cambia nulla, poi. Normale un attimino. metti il microfono normale. Comunque la questione del fisco dell'antenna, non so se è quella, è certa, l'antenna che rimane tutti i radiali. Sortino, quello che è, cosa vuoi per te? A me io uscivo peggio con la mappa, si cominciava a fischiare, che poi non c'avevo il corso. E te lo dico di arrivare. Purtroppo l'apparecchio per lavorare bene deve avere l'antenna come si mette. Se no fischia. Eccomi qua, 1, 2, 3, 4, 5, prova. Dipendente con comunale. Dipendente comunale. Allora, ci vedi un altro preso. 6.300 euro di tirato. Non ti ascolto, non ti capisco cosa stai dicendo. Ho ritirato 6.300 euro. E se non li vuoi ti ricomino a capo. Ma non passa. Sto mangiando un cacchio. Due canali, non lo so qui. in macchina, anzi sono in macchina, sto andando a Domo. Non sono a Trieri, ho capito per il vicino, ho capito, vabbè. Ma riprendete, Pompuscu, riprendi, ci me la dico mai niente oggi. Troppa roba al computer. Manca l'aula. Dimmi già. Stavo facendo un corso con uno spagnolo, per quello deve essere. Che dispatterà dove io sul 6. E io ero qua, ero vicino a casa tua, mi sto tornando a casa. È logico che li pigliavo i corsi. Vabbè. Sono andato a casa tua e Antonello arriva a basso e per quello che non arrivava a basso e per quello che non lo ascoltavo. Cioè, cazzo, mi c'è andare così voi, ti intendi? Roba di così, cazzo. E vabbè, quando sei sotto sì, ma se ti allontano non senti più. Già lo so, e alla sì che sono lontano e non sento più a nessuno. Abbassiamo il radio. Chi era questo basso basso? Adesso sto scelto. Oh, stavo dicendo, i risparmi sono purtroppo sono come dolori reumatici che si riaccendono il piede. Perché quando sono vicino all'alto. Sì, guardate quando piace la Claudio qua, con pareti brillerà Roberto Quadrato. Sì, ma parla, non ci parla, se non parla in 27 è quello che è così piglia. Già parla, già parla, non ti preoccupate, sto dicendo io che parla in 27 Claudio. Lo conosco, però è che già entra in 27 tutti i giorni. No, ma non deve più fare antenna di 27, deve più fare un dibata verticale. Non è piazza rimasto, ma no. Ragazzi, ha detto a tagliare questa Mantova. Cazzo, io mi la dico, tu devi piazzare multibanda, non mi piazza Mantova. Lui mi ha detto, devi piazzare multibanda, se poi lui mi ha detto una palla più con il centro. No, no, ma sta la Mantova. Fidati. Perché, non so, infatti io non so più di navi con te. Tutta. Ci voglio una balletta di 150 metri di capo. In più ci muove l'antenna e dice un pacco di là. Io non ci voglio 1000 euro a rifarsi la stazione. Le antenne Pablo, Perciò risparmia. Si smonta la radio, la mando io. Si smonta l'altra antenna VU. E risparmia un pacco di soldi. Cioè, deve recuperare un po' di capo. Al limite, poi aggiungiamo il marinotto. E che cazzo è così di causa dispersione? No, non fanno, il capo vuole unico. Da disceso, da cazzo. Già, cazzo, sì, perché lui è al secondo piano lì, è logico che ci vogliono un casino di mettere il capo. Invece mi cosa ha fatto? Noi siamo vicini, invece a me passa il tubo dove devono domani mattina, la sollevo di 6 metri, li metto 4 radiali di quelli dei Grand Prix e ti faccio vedere che si mangia la malto va 5 si mangia. Ma questo sono non me li dia chi non mi comprende assai, ecco. Tutto qua. Comunque se tratti antenna, almeno fai 40 li arrivi, tranquillamente. Guarda, ti giuro, a me mi è successo con la con cosa, allora guarda, adesso non ci sono più quelle 32 caricate che c'è quella 32, quelle piccoline. Se io avevo avuto una 32 chiamata Roberto tanti anni fa, che lui aveva 4 piani più di me, invece avevo 27 anni e 50 anni, figura di dura prima che uscita, che era lunga 6,50 m, dovrei arrivare da un metro e mezzo, ma sotterrato. Quindi là mi sono mutuato, dove volevo, io faccio trovato un papo, lui mi sono mutuato lo stesso con questa frente di quella, però non ne va. E come se tu c'avevi la tubo 2001 e l'avessi piazzata 4 metri più, 4 piani più alto. Mi sotterrava e diceva, magari di lunghi un metro. Quindi, la prendita se lo ricordo dove, di Roberto, quello che vicino, capitano vicino a casa mia, mi castigava come nulla a me. Non posso immaginare, però vabbè comunque. Diciamo che è una matta con una buona antenna, dai. Ma Adriano non so se c'ha una specie di antenna. Se ci tratta un'antenna come si deve, cazzo va matto a tutti. Adriano se si mette la mantova come si deve esce bene, ce l'abbiamo 27,90 messa male, l'ho vista l'altro giorno. Mi parlo di un antologinoso, non ce l'ha neanche matta, sta uscendomi proprio di canna con l'antenna. Capito, però se piatto un'antenna come ti devi, come ti richiedi, e voglio crescere da lì. Lui c'ha tutto il canale aperto, c'ha lo stesso canale che c'ha Mario Mazza, è preciso. Lui arriva uguale. Magari la tua. Allora ero un basso, sono 4.30. Vabbè, un po', diciamo che c'ha residuo dall'antenna Adriano. C'è 9.60 qua, Però se fa l'antenna faccio a tutto. Ce l'ha già l'antenna Adriano. Mo sono cazzi vostri. Devi dire a che fatta l'hai Adriano? Il punto più bello che c'è che riceve molto meglio di come dicevo prima, che non c'ho problemi di cosa, di radici, capito? Dovrebbe essere solo la 50 metri della macchina, figurati che c'è una bella eccezione, non c'ho quel problema dei radici di prima. Sento le persone pulite e pulite e mi ascoltano loro. C'è il punto proprio bello, perché lui è lì, quindi si è aperto un palo, dove c'è il caminetto, nella stessa direzione, e c'è tutto quanto aperto in quel lato lì. Se la sposto di 2 metri, boh, è più pezzo. Andrà bene vela. Domani mi se vuoi venire a darmi una mano, gatto, Antonè, la facciamo con la storia lì. Perché io ci ero impegnato, cazzo, ero già una settimana che non ci andavo dalla 25, quella lì mi arruccia, se no, cazzo, un casino, poi ci l'avevo dovuta portare, per forza. Guarda, se lo fai domenica mattina vengo io, vengo, perché domani mattina devo fare, portarmi il frigo e vengo da dopo che c'è un garage, capito, Natalia? Quindi se lo fai domenica mattina io vengo e ti do una mano, non ci sono problemi. E andrà bene, me, così lo dico anche a Pierpaolo e Antonio, per una mano a sollevare, che è pesante, mi pare così, ma il suo barco è pesante. Cioè a me mi serve uno che la regoli, poi io magari guardo da sotto, no? Già c'ho le VPD qua e così vediamo quando è pronta. Sì, gli VPD già ce li ho anche io, c'ho quelli a loro, che sono più facili da usare. Potrei avere portato in mano, posso tranquillamente lavorare con lo... c'è la coppia del box, capito? E quindi possiamo lavorare tranquilli. Cioè quelli... tu hai limiti così, quello manuale io uso quello, di... quello che ho a polso. E non c'è problema. Lì avevo di cose, di DMR, di PD, no? A voi. Sì, vabbè, se non ci avevo un manuale da voi, io capito, quell'altro, non è problema. Andare, allora. Facciamo domenica mattina così si è a posto, io domani devo portare il frigo, la lavatrice sopra e poi scendermi la lavatrice di qua su, giù, che è anche il frigo, che di qua non me ne faccio niente, e se sento qualcuno me lo prendo. Cioè non volevo cazzo la roba, ce la faccio a buttarcela. Me la vedo 150 euro frigo e lavatrice se la via in Napoli. Andrà bene Meda. D'accordo, allora, siamo d'accordo così. D'accordo anch'io, eh. Ok. Andrea. Danni. Eia. Grazie, sì. Sì, la sconsola sto facendo. Le orecchie di porco. Sono un po' stanchino. Vorrei farci immaginare, ho sentito Marcolino. Che quando fa la grida, me lo senti? Senti. E ha pagato 16 90. Certo, che bravo che sia, ho saputo che hai preso 10, vero è? E oggi 9 e 8 ho preso. È bravo il subizino, è proprio bravo. Quando da ciapo un latinaccio e capisci che ha mossi. Marcoli. Tu sono passati la rubrica affettata di intendimi. Noi ti compriamo un rubio e ti mangiamo in 5 secondi. Vai, che ti prendo la pizzica a morsi quando ti trovo. Yeah. questa. Ti sei incrociato, non l'hai visto? Sì, ho visto la macchina attorno, un momento. No, però, no, lì, dai, ho visto che l'aveva in due, ma come mi sono girato per vedere se eri tu, perché ho visto l'antenna, ho visto che l'aveva in due, ma non l'ho visto bene. Ho capito, no, ma come persona, parlando, come ti è sembrato? Ah, Genga. Cosa? La conosci meglio tu di me. È meglio, è meglio. Vedi la chiave, è tutto. Ma è da burro, non è che si la sembra vinta. Aspetta che mi sta facendo solo. Sono il tico Marco, ti sta facendo. Allora, è la gola, Natalino. che ti hanno abusato con parecchio. Sono i misteri della frequenza. C'era un filo che si stava mezzo staccato. Meglio così. Cosa? Prima sul 2. No, la storia è questa. pensa che io sentito a tuo padre che stava modulando qua, però lo sentivo sul 2 come se fosse sul 2. E io ho detto l'altra di passa sul 2 che c'è anche Pierpaolo e moduliamo anche con lui. E vabbè, io passavo sul 2, è venuto sul 2 per Pierpaolo c'era ma non rispondeva perché era displante. Forse, non lo so. E beh, non ti poteva seguire. Ciao Antu, adesso ho collegato San Paolo con Brasil. E dove? Su canale 42, il mando laterale. Cazzo, era con uno o due ore a Rabatelli, già che non si comprendia né di Bari, che d'inglese non ne parlava lo brasiliano, e l'altro non parlava lo spagnolo. Cazzo, e come ti sei fatti? La chiamo a due, cazzo, ti ha giocato due gol e che subito, ma inteso. San Paolo del Brasile. Con Caras. E con questo è lui. Prendi ex questo qui, è tremendo. Hai messo il microfono a manetta, gatta, te l'hai giocato due cose, a vedere se mi hai inteso, è lì giù lì, giù lì. Giuro cazzo che ci ho parlato adesso, ho messo il canale 42 in banda laterale. Se tu non lo fai, se te ne fai tutto di colpo, quindi trovo buccia di zendi io. Vabbè, quello non è un problema, là già ci si arrangiamo, là, vediamo un po'. Ciao, ti ho ben sentito. Ma dai, se c'è il minimo scendo anch'io. Come? Se c'è il minimo scendo anch'io. La tribuna ci sarà o questo o all'altro sabato sera, se vieni, mi fai un piacere. Tutto insieme con l'antenna attaccata è micidiale. anche per quello, per non ammazzarti, faccio solo quel pezzo lì, gli metto la cravatta sotto per tenerlo fermo, così posso lavorare su quelle staffe lì, ho capito là. Già l'ho studiata bene la situazione. Da Leone, cioè, ho tirato un bel colpo di rene per tirarla su. Poco qui c'è il soffaro, la massa in Italia. Ma comunque, già l'avevo tirata su, dai. Ti capisco, che ne ha tirato su dei mesi di quei pali fatti così a stiche mendoci, cioè a prendere, a puntare, a alzare. E capisco, ci vuole gente con un bel po' di reni. Suppongo, tra che conosco un cubo, suppongo essere ben piazzato. E se no non la abilità Antonio, lo dico, conosce, ma io sono preso quei zelli, che si vengono da una mano, che viene Camanzano, io magari rimando qua, quando Alessio va a io me la scendo, no? Poi scendo qua e mi metto tutto qua, l'attacco direttamente al rosso, le tre cose, e me la Antonello molla la rolla e la tira su e vediamo un po' se scendo. Capito? Perché bisogna regolare, una volta regolata, se adesso mi metto le staffe per quella multibanda e così la regolo pure in stazionale, perché quella può andare anche in trasmissione, capito? Intendo la cosa, ma come il disco? Ehi, regolo anche quella, capito? Lui si c'era, se non tocco più nulla, ma lui si è aggiornato a calcio di polo, io mi faccio più la scendi. La sappa, infatti, me l'ha dato, ma lo avvicini, me l'ha dato, capito? Voglio tirare su quel dipolo per i DX che abbiamo fatto, che ho fatto l'anno scorso, via, quello ci metto il trattore, a vedere se si imbatte, mi sa se è via. La classe è sempre la stessa, ti piace sulla carrucola, ti fai lo stendimento che la carrucola sali e di quello che ti piace. Poi abbiamo sempre fatto in tanti anni, insomma. Siamo venuti in cani di che cosa, e c'è bisogno di parlarne di dieci una volta. Vabbè. Così io lo piatto a terra e se ne sale da solo pure. Non è problema. Ma se lo prenderà Gianni, ma io si trova. Gianni, ci sei? Gianni, è tutto quello che devo poter fare, ha fatto un bel DX. Un bel DX, io sono rimasto geloso perché c'è Luca che sta avendo colpi. E quindi non sono riuscito a farlo anch'io. Non tornerò solo nel canale del particolare, però la verità è il primo segnale che arriva addirittura nell'ultimo anno, anche di più, l'ultimo anno e mezzo, perché propagazione è zero. Gianni, ci sei? Già ci sono, sono qua. Io arrivava bene, dai, arrivava molto bene. Anche a me mi ha dato un segnale buono, dai. Santiago 9, Radio 5, già va bene, in propagazione va benissimo, KK. Matalaus, e allora questo gelato come ce l'abbiamo preso? Lui ce l'ha preso la frutta, io me l'ho pigliato Ferrone e Parla, cavolo. Manna cioccolato, è un po' di cacao. Così è buono. Segreto. A gusto mio, poi a gusto tuo magari ti piace più il torrone che il dolce dolce. Mi piace più il torrone, la verità, io sono andato a farsi soffrire. Paga. Hai mangiato la cialda? Ehi. Ingordo. Ma ne me la compro anch'io. Paga il gai. Io persino voglio mangiare un bel gelatone. E questo è il primo che non ho mangiato. Perché ieri che andiamo più a Sigerà, andiamo più a Sigerà, per lui questa è una chiesa di non di più, questo no, da lui me la lascerà. Allora si chiede un'altra chiesa, ma che domani, no, vabbè domani, tanto non posso, non devo fare un caso, domani, vabbè, per domenica mattina devo aggiustare l'antenna, non so se domenica sera c'è scuri. Lei si chiede di recuperare la settimana perduta. Ti fa fare gli straordinari. Per Paolo, Pierino, cosa stavi di ex sano? Facendo di ex? Vabbè, allora ti lasciamo in pace, poi rientrare tu quando vuoi. Antonio, Antonio. Un bel succhetto di frutta mi sto bevendo, questa è la borsetta. E vai, è la grande, acce si chiama. Succhi andiamo. Succhi andiamo. Ciao Peppa. Chiede che è. Oh, io. Vabbè. Speriamo che adesso entri qualcosa di più importante. Ha trovato l'EQSL che c'avevo 30 anni fa, ancora integre. E te non me l'ha fatta scrivere la mia EQSL, già. Vabbè, scrivitela tu dietro. E il segnale 2920 radio 5, 925 radio 5, e si abbuso. Ah, devo solo quello messo, insieme a quello altro. E poi ho trovato tutte le questioni che ho fatto, c'ho Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio, Spagna, tutte quelle dell'Italia, della Sicilia, Trento, Treviso, c'è una venaglia un po'. Ma già a me. Allora sai che c'ho... mi hanno contattato nove amici, tutti siciliani. Ah, lì su Facebook. Ah. Io ho dovuto rispedire il computer. Dove è successo? Scalda un bel, da quando mi hanno toccato scalda e si spegne. No, sta funzionando la ventola. Non penso che sia quello lì. Io penso che invece abbiano toccato qualche cosa. Boh. Ma dove vanno solo sostituire il coperchio? Me l'hanno messo nuovo, il monitor. Scappa. E adesso scalda. Stasera l'abbiamo spedito di nuovo. Cazzo, non devo muovere questo computer. Che computer c'hai? Asus. Io ce l'ho Acer. No, è in garanzia Adriano, è in garanzia, il computer ce l'abbiamo da poco quel portatile, perché ne abbiamo un altro, però è fisso, là, ci abbiamo preso anche il portatile. No, è in garanzia, se quando è in garanzia glielo spedisco, tanto tutte a spese loro. Viene il corriere, se lo ritira a casa e poi lo spedisce. Io Adriano sinceramente non l'ho mai fatto, non sapevo che si potesse fare. Ah già, lo sai che babbo mi ha fatto notare una cosa, io non lo sapevo, ecco perché non dà fastidio agli altri. Lo sai com'è lo schermo? C'è la protezione. È il nuovo sistema, quello piccolino che hai visto pure tu. Sistema a LED. Ah. No, lo schermo invece di essere come gli altri, come si chiama? LCD è, cioè, il sistema a LED, full LED, non caso si chiama. Va, lo schermo. Non è. E adesso come i televisori nuovi che stanno uscendo. A LED. Adesso stanno facendo così, stanno facendo con un sistema diverso, dai. Io LED esistono già da 3 anni, sono schermi OLED, LED organici, quelli LCD ormai sono obsoleti, e LED organici e OLED sono... c'è già da 3 anni, sono una cosa perfetta, addirittura perfetta, perché sono proprio LED organici, producono la luce, questa luce, non c'era la classica lampada dietro come gli LCD che sono macchiavica. Non è che siano macchiavica, no, sono... Stanno bene, ma questo no, non ti dà fastidio agli occhi proprio, quando tu sei al computer, no, non è come gli altri schermi che magari sai, tanto tempo luce ti dà del fastidio, questo non te lo dà, questo dopo me l'ha fatto mostrare, guarda che cioè, questo non è come gli altri, lui è a LED. Natalino di Tarascona. Riprenditela. E cosa la riprende? Cosa la riprende? Io non ho mai cucinato ancora. Uff, mamma mia. No, io sì. Io sono Gappus. Ma io sono appena rientrato, no? Non ho cenato. Infatti. La tecnologia sta sempre andando avanti, eh. E beh, te credo. So anche se tu ci stai un bel po', non ti dà fastidio. Invece secondo te, ma chi c'è l'ECT, ma raggiunti, ti dà dei fastidi dopo che ti sei un po', eh. Io me ne devo buscare uno per le radio, questo qui così almeno me lo tengo tranquillo. Qualcuno piccolino per le radio già lo devo trovare, eh. Sui 20 euro di tutti mi è uscito, cazzo. L'anima? In tre, è anche giusto. Ma da dividere o te ne pagato tutto? No, da dividere, però sono presenza di una cazzo, che mi deve arrivare la liquidazione, ma non l'avevi dovuta ancora. Radio vecchia, Stato a informarti. Me l'ha detto a fine aprile andare a chiedere se non mi è arrivato nulla. No, tieniti sempre informato. E me te credo. Ragazza. Gianni? Come? Ma tu? Allora, riprenda, signor Gianni. Via. E quindi c'hai il monitor all'avanguardia. Ma io l'ho sapevo, me l'ha fatto votare, parlo, me l'ha fatto votare. Ho detto, oh, questo non è l'esigio, questo non è tecnologia LED. Ehi, KK. E vabbè, chissà che siamo affessi di acqua del computer mio, boh, non lo so, però si spegneva. Tu poi adesso più bello stavi parlando con qualcuno, tu, e ricordo che si spegneva. L'uomo si racconta una cosa e poi subito l'altra. Finanza, guarda. Non ce lo faccio proprio. Cosa ha detto Marco lì? Padre, buona notte da parte mia. Ma buonanotte sta dando. E ha detto dai la buonanotte a parte mia che non ce la fai. Ma dormi, dormi. Vedrò un medico, metti un sasso. Chissà che avrà preso. Quella lì, tu faccio niente, ti fa sonno. Ascolto, aprile, dolce dormire. Io voglio parlare con Marcolino. Parla. Oh, hai dormito? Marcolino? È addormentato per te. Per sapere se è vero l'ha preso 10. Sì, sì, che è vero. L'ho visto anch'io. Se è vero, c'è un orologio per te. Marco. Sì, che è vero. Me l'hai detto l'altro giorno, Gianni. Infatti gli ho detto che è bravo, gli ho detto io. Qualcuno che non non riesce a uscire. Ragazza, vabbè, fare, esatto. La prossima volta non lo farà più. Vabbè, questo è poco ma sicuro. Ma poi si è accorto anche di aver sbagliato, che poi è venuto a scusarsi lui. È giusto. Fai girare già, dai. Pier Paolo, riprendi. Eia, non è ancora finito. Sì, ho finito. Cosa succede da quella parte? Come si sente? Prova. No, ho detto cosa si sente. Musica. Musica. Musica sensitiva. Nappa. Sperimentando. Hola, hola, hola. Beh, non se lo riprende nessun microfono, Natalaus. Ehi, hey, già, ma vado a cenare io, riprendo dopo se ci siete, là. E c'ho un vago del ramine. Oh, io ho delle cipolline di quelle per fare le uova, di quelle lunghe e verdi, di quelle per mettere in mezzo alle uova. Se hai voglia di uova, te le passo. Qua c'ho tutto, qua c'ho tutto. Cipolle normali. Sì, lo so, ma io ci metto quelle normali, fa lo stesso. Ma. Pier Paolo. non mi sbuffarti, se accanto mica ti ingrassa un meme. Senti Tina, devo cercare di rimanere per forza, non sto scherzando. Ciao a tutti, là. Ci dico che se non me ne vado, anzi fai qualche barchino, così non vi sento. Ciao.